scusami. Vuoi fare partiamo, solo perdonami. Prima di iniziare? Perdonami. Allora, vi siete trovati tutti e due, eh? Ti ricordi così o mai studiato o no? Vabbè, forse mi sbaglio. Vabbè. Ma cosa stai facendo? Già che sbagliano tutti, sbaglio anch'io. Ah, bene, bravo! Scusa, dai, non faccio più. Ci siamo? Adesso mi raccomando. Siamo pari, tutti pari, vai.